100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Crollo del petrolio, euro ai minimi da oltre 10 anni sul dollaro, questi sono i temi che hanno caratterizzato principalmente la settimana scorsa, settimana che si è conclusa con la pubblicazione del dato sulla disoccupazione americana. Lo scorso mese l'economia se le strisce, ha creato 252.000 nuovi posti di lavoro, un dato superiore alle attese, portando il tasso di disoccupazione complessivo al 5,6%, il minimo dal 2008. Le borse hanno vissuto una settimana davvero complessa, con cali profondi nelle prime giornate, poi un vistoso recupero, ancora una volta grazie a Mario Draghi, che ha ribadito la partenza del quantitative easing europeo, di cui sapremo di più il 22 gennaio. Cresce intanto l'attesa intorno all'evoluzione della crisi politica greca, mentre il mercato ha deciso di non lasciarsi toccare dai gravi atti di Parigi. A Piazza Affari le banche sono state di nuovo al centro dell'attenzione degli operatori per vari motivi, intanto perché la stessa Banca Centrale Europea ha aumentato le richieste di efficienza patrimoniale agli istituti italiani, sono 15 quelli sottoposti alla vigilanza europea. Poi è tornata a far parlare di sé Banca Monte dei Paschi, che secondo molti potrebbe essere nel mirino di qualche altro gruppo. Ha suscitato molti rumor e l'aumento di capitale da 7,5 miliardi, varato dalla spagnola Santander per qualcuno, operazione decisa proprio per effettuare l'acquisizione della banca italiana. Tutti però hanno smentito la circostanza, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. I temi da monitorare questa settimana: i prezzi al consumo di molti paesi, Stati Uniti in primo luogo. Il focus degli operatori sarà poi in particolare rivolto alle vendite al dettaglio e alla produzione industriale americana e alla ripresa della stagione delle trimestrali americane. Ad aprire le danze, come sempre, il gigante dell'alluminio Alcoa. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alberto Orioli. Cosa succede al mercato della casa? Conviene ancora l'investimento nel mattone? E quanto rende affittare un immobile? A queste domande ha cercato di rispondere un'indagine del Sole 24 Ore che trovate oggi in edicola. In sintesi, può accadere che il 65% del canone di affitto possa essere eroso da tasse, spese e oneri vari di manutenzione. Questo è il dato più negativo che emerge dall'inchiesta e accade in un immobile affittato con la cosiddetta cedolare secca, cioè la tassazione al 21%, che può sostituire l'altra forma di tassazione ordinaria, cioè l'IRPEF, che nella nostra inchiesta stimiamo al 38%. Il parziale beneficio fiscale è stato presto annullato in realtà dall'aumento dell'IMU e della TASI, che hanno segnato una vera e propria progressione fiscale con un'aliquota media del 2012 che era al 9,49 per 1000, che è diventata poi 10,35 media per 1000 nel 2014. Nel frattempo poi si è assottigliata anche la quota di deduzione forfettaria dal 15 al 5%. Si sono abbassati i canoni per effetto della crisi e questo ha portato con sé anche l'esplosione delle morosità, che sono salite ben del 46% in 4 anni. Il resto lo ha fatto il mercato delle compravendite, che sono crollate. Questo svuotamento naturalmente ha indotto anche un abbattimento delle quotazioni delle case. Probabilmente gli italiani stanno chiedendosi se valga la pena di cambiare proprio una strategia di investimento e anche un costume del risparmio italiano, perché è classica la scelta degli italiani dell'investimento nel mattone, visto che sono all'80% proprietari delle case che abitano. Comunque i livelli medi di ritorno del capitale in un immobile oscillano oggi tra l'1,78 e il 2,61%. Non è comunque male in un periodo di deflazione e nel giorno in cui l'asta dei bot si è chiusa con un rendimento dello 0,2%. Il problema deriva dalle incognite, che sono appunto quelle fiscali, la svalutazione del patrimonio e soprattutto l'aumento delle morosità. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.